vinta, no? Ci teatro. Allora, buonasera a tutti, io direi di iniziare. Allora, questo è l'ultimo incontro di oggi di Spazio Libro, un'iniziativa che promuove il libro e la lettura a 360 gradi, coinvolgendo tutti gli operatori in questo settore, dalle biblioteche alle librerie, agli autori, alle case editrici, ai lettori. L'iniziativa di quest'oggi è in collaborazione con la Biblioteca Provinciale Italiana, con cui ormai operiamo da diversi anni, ed è dedicata a un'autrice dell'Alto Adige, Anna Rothensteiner. Lascio comunque la parola alla direttrice della biblioteca, che introduce i nostri ospiti e dice qualcosa. Buon ascolto. Grazie. Dicerò anche molto breve, come diceva Dante, faccio velocissima. Io sono molto contenta, ecco, da anni che partecipiamo a Spazio Libro e così abbiamo l'occasione anche di fare il punto della situazione di quello che fa la biblioteca. Ha un compito particolare, che è quello di far conoscere l'Alto Adige attraverso autori, autrici, scrittori, persone che lo descrivono, che lo raccontano e che lo studiano. Questa volta abbiamo con noi un Dichpinser, so dass du heute mit uns bist. Für diese Gelegenheit, also ich danke wirklich, ich bin sehr dankbar. Danke. Anna Rothensteiner l'avevo conosciuta ancora qualche anno fa, siamo rimaste in contatto, c'è stata questa occasione della traduzione del suo romanzo Sassi Vivi, e è una storia di persone. Alla fine l'Alto Adige, o Sud Tirolo, come prima abbiamo appunto dibattuto, è un territorio abitato da persone con sentimenti, che con questo pretesto, con questa occasione che Anna costruisce, creano una descrizione, un racconto di quella che è poi la realtà che viviamo e che conosciamo tutti. Quindi lei è riuscita a toccare tantissime corde con questo racconto. Si parlava prima dell'identità. L'identità può essere un bene prezioso, può essere a volte una camicia molto stretta. Chi come noi abita in questo territorio dovrebbe permettersi il lusso, come l'ho vissuto io in tante occasioni, di riuscire a scivolare dentro e a uscire fuori, a scivolare dentro e a uscire fuori senza accorgersene. Questa è una cosa molto importante e che forse arriveremo a fare. Però lascio la parola alla poesia di Anna, e ringrazio tantissimo la signora Festi, che è qui con noi, che ha avuto il compito molto molto delicato di tradurre, perché anche attraverso la lingua ci sono dei meccanismi e delle sensibilità veramente notevoli. Ringrazio l'editore Keller, che sa sempre cogliere acutamente degli autori e delle autrici interessanti, e ringrazio Bruna Maria, perché ci accompagna da tanto tempo nelle presentazioni con passione e con intelligenza. Grazie. Grazie. Chi comincia? Tu? Comincio io. Allora, intanto ho il piacere e l'onore di presentare Anna Rothensteiner, che è la prima volta che è venuta a Bolzano, invece non potevo, perciò non è andata bene. Ecco, e porti sempre mia figlia, una seconda occasione. Ecco, allora, sono rimasta profondamente colpita, devo dire, da questo libro, già subito quando l'ho letto, ma l'avevo letto già prima in tedesco, me l'aveva passato mia figlia Petra, sua compagna di scuola, fra l'altro, che ci saluta, scusa che non c'è perché è amico di fatto. Comunque, volevo dire, mi sono rimasta soprattutto proprio presa da un fatto particolare, ma si sente lo stesso, da un fatto particolare che, come alcuni hanno detto e io su tutto non sono d'accordo, comunque la realtà, questa realtà di cui parlava Valeria, questa realtà di essere qui e là, di avere questa camicia che si deve aprire, si deve naturalmente aprire anche alle altre lingue, alle altre due etnie che sono un substrato di questa nostra terra, ecco, mi ha fatto molto molto piacere, mi ha trovato molto interessante la storia che lei ha sotteso in questo meraviglioso libro. Questo libro è un libro prima di tutto fatto con il cuore, col cuore, con la testa naturalmente si può scrivere solo col cuore, come dai sarebbe un impegno troppo assurdo, questo detto. Comunque questo passaggio di alcune delle cose che secondo me sono molto molto importanti. Per esempio, io ho un bisnonno norvegese, mi spiace, te lo devo dire, è così. E allora anche questo buttarmi dentro in un paesaggio come quello della Norvegia, per me è stato un colpo di ghiaccio, numero uno. Numero due, questo avvicinarsi e scontrarsi di queste due culture, Franz e Dora, i due protagonisti, interessantissimo dello sviluppo e del movimento. Parlo proprio di movimento come se parlassi di una sinfonia, perché questa è la lingua di Anna, è una lingua che ha un ritmo veramente musicale, senza farti nessun complimento perché lo penso davvero, ma poi soprattutto questo incontro, contrasto, questo movimento fra queste due persone, questi due corpi, e poi questo grumo, questo proprio grumo, credo che fosse la parola più giusta, questo dolorosissimo momento che è stato anche, non solo, ma anche per la nostra terra, questo momento della guerra, della fine della guerra, con lo scontro in fondo, lo scontro e l'incontro di due ideali, chiamiamoli così, uno era quello naturalmente per la grande nazione tedesca e quello era per, non so, la grande nazione italiana, diciamo in questo modo. E il fatto della capacità di questi ideali, e adesso in fondo siamo al mancanza di ideali, non che ne vorrei di questi per carità, ma comunque oggi ci mancano gli ideali, di questi grandi sogni, di questi grandi ideali, di veramente disegnare a fondo la vita della gente. Sassi vivi è il titolo di questo libro, almeno nella traduzione in italiano, e questi sassi vivi sono veramente questi monumenti alla memoria, secondo me, questi monumenti alla memoria che la protagonista Dora erige, mette insieme, mette con pezzo dopo pezzo, per poter eliminare in fondo in qualche modo, buttandosi i sassi, biblicamente i sassi dietro la schiena, per poter eliminare questo grumo, questo dolore, questa incomprensione, questa difficoltà che lei ha avuto, questo grande sogno che è stato quello per lei del fascismo, non condiviso dal padre, poi il racconto è molto particolarizzato, e questa immagine del sasso, ma anche non soltanto di sassi vivi, come dice il titolo, ma i sassi vivi anche nel titolo tedesco, che sono questi litops, che sono veramente non solo dei sassi, ma sono delle piante, che a un certo punto si aprono. Io l'ho usato, scusami, ho usato di te, ti ho fatto un piccolo nell'articolo che uscirà domenica prossima, che è sui sassi, non su di te in particolare, ma sui sassi, perché volevo usare questa metafora per la fine di questo mese, la fine di ottobre, l'inizio di novembre, cioè i morti e i sassi, con questi sassi che si mettono, secondo l'usanza ebraica, sulle tombe. Ma non c'entra questo, ma però nella fine ti nomino con questo tuo bellissimo lavoro, con questi litpos, che sono appunto queste piante che, come se hanno l'aspetto di un sasso, che si aprono e emettono questo fiore. E questa memoria di questi sassi. E qui naturalmente, scusa, naturalmente io quando leggo parto poi per le mie dimensioni, per le mie fantasie, questi sassi mi ricordano tantissime tradizioni interessantissime, una forse delle più belle è quella che dice che una volta anche i sassi erano teneri, da giovani erano teneri e morbidi, e che coi dentro comunque mantengono questo loro cuore di vita, i sassi vivi. E che le montagne in fondo sono dei grandi sassi, e quando si arrabbiano, quando c'è qualcosa che non va, scuotono le spalle, e nel scuotere le spalle ci sono i terremoti, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Oppure, ancora una bellissima storia di un antico frate, del 1200 la storia, che sono queste pietre Efrimo, che sono le pietre viventi che sono nel deserto, che sono maschi e femmine, e che seguono i carovanieri, e che a loro aprono una strada, che insegnano loro dove c'è l'acqua, e quando i carovanieri muoiono si poggiano sulle loro pietre, sulle loro tombe, scusa. Ma questo, tutto questo riferimento legato al tuo libro e a questo andamento musicale proprio del qui e là, della lontana Norvegia, di Roma, di questi accenni a Roma dove ho anche vissuto, dove ho rivisto parecchie cose, e proprio questa tua enorme capacità di collegare, di orchestrare questi argomenti più vari, uno dei quali quello durissimo di questo periodo, che è stato questo periodo fascista, che non è assolutamente fatto in maniera né pesante né... ed è, secondo me, se tu permetti, dei tre, diciamo, dei più, dei vari libri scritti su argomenti che riguardano la sofferenza di identità, non in questo in particolare, della nostra terra, secondo me è il più riuscito. Permetti. Grazie. Questa è la mia personale opinione, contestabile quando volete, però io qui sto e qui sono. Grazie, scusate. Grazie. Per introdurre una cosa molto importante, credo che la difficoltà più grande, io ho detto il libro l'ho letto prima in tedesco e poi l'ho letto in italiano, e ho apprezzato moltissimo che non conoscevo la Carla, e ho apprezzato moltissimo questa traduzione, perché tradurre è sempre un introdursi in un mondo diverso, in un altro mondo, e mediarlo, perché tradurre è questo, proprio portare da una, questo trainare da una lingua all'altra, e in modo che le sensazioni rimangano le stesse. E qui in più punti mi sono riletta il tedesco, mi sono riletta l'italiano, c'è proprio questo trasportare ad una mentalità non tanto ma un po' sicuramente diversa, trasportare le stesse cose che ti detta dentro. Cioè io ho sentito quello che avevo letto in tedesco, l'ho risentito nella tua traduzione. Beh, non vuol dire che funzionate. Scusate anche questo. Questa mia, io sulla traduzione ci terrei che parlasse Carla. Sì, allora comincio io. Comincia tu. Sì, la traduzione, beh, è stato un grande piacere tradurre il libro ed è un libro che rileggendolo poi scopro sempre delle cose nuove, quindi questo, per questo lo prendo in mano qualche volta e rilego delle cose. Adesso ci ho trovato cose che con la traduzione non c'entrano molto, ma insomma è questo continuo attraversamento di confini che i due protagonisti fanno nel corso della loro vita, perché loro, finita la seconda guerra mondiale, adesso non vorrei parlare troppo della trama perché così vi tolgo forse le curiosità, però passano da un confine all'altro, si lasciano alle spalle l'Alto Adige, il Sud Tirolo, attraversano l'Europa, arrivano in Finlandia, in questa terra di sassi e di acqua, arrivano lì, non conoscono la lingua, devono inventarsi completamente la loro vita, una nuova vita, devono inventarsi addirittura un nuovo sistema di orientamento, perché loro sono abituati alle montagne del Sud Tirolo, e non conoscono il mare, quindi nel mare c'è tutta una segnaletica diversa, devono imparare la lingua, il finlandese, che è una variante poi particolare del finlandese, perché il libro è ambientato su alcune isole che fanno parte della Finlandia, però dove si parla lo svedese in sostanza. Quindi anche lì confrontati con una lingua ostile che poi nel corso degli anni apprendono e riescono in qualche modo a inserirsi in questa comunità che bene o male li accetta, li lascia vivere. E poi a un certo punto, per recuperare questo passato che per Dora è importante, perché il tema del libro in sostanza è questo, come ci si rapporta col proprio passato, almeno io nella traduzione l'ho vissuto in questo modo, e per recuperare questo passato decidono di scendere dal nord verso il sud, quindi attraversano di nuovo altri confini, arrivano a Roma in una realtà completamente diversa. E questo attraversare, passare da una parte all'altra, insomma, è una realtà che abbiamo oggi sotto gli occhi in continuazione. E quindi mi piace questo aspetto dell'attraversare che il libro tematizza. Per quanto riguarda la traduzione, penso che si possa dire che la versione italiana in qualche modo è un momento di crescita dell'originale, ecco, perché la mia idea della traduzione, ma non è la mia idea, me la sono fatta così traducendo e leggendo anche testi sull'argomento, è che appunto il testo italiano o il testo tradotto sia qualcosa che integra in qualche modo l'originale. Quindi di tutte le interpretazioni possibili ne sceglie una, un testo comunque una pluralità di significati, e quindi il traduttore ne sceglie uno e lo porta avanti. Questo diciamo non è forse l'originale che Anna ha scritto, ma è comunque un originale. Direi che non è un originale di seconda mano, come spesso si sente dire quando si parla, sì, ma è solo la traduzione. Certo che come traduttore sei costretto a fare tutta una serie di compromessi che possono essere più o meno riusciti, per cui alla fine magari poi un testo, passati 2 o 3 anni, lo tradurresti in un modo diverso. Quindi c'è sempre una tensione continua, ma non lo so, sì, fra, anche lo scrittore, ecco, questo succede anche allo scrittore, ecco, quindi c'è una dialettica particolare che si instaura fra il testo che io leggo e traduco, il testo che io traduco e magari il testo che avrei potuto tradurre. Quindi il bello della traduzione è anche questo, lasciare sempre qualcosa di non detto o che avrebbe potuto essere tradotto in modo diverso. Queste aperture di senso che poi insomma ogni lettore è chiamato a interpretare e a colmare nel modo che più gli accomoda. Non è solo così con la traduzione, ma è principalmente anche con la scrittura. Cioè, se tu scrivi, esiste, devi sempre scegliere, dire adesso scelgo questa parola, oppure però ci sono tantissime, come dire, ci sarebbero tantissime altre variazioni, e appunto c'è però la libertà del lettore di trovare anche la propria interpretazione. Ma una cosa, siccome tu hai parlato tantissimo anche dei confini e appunto di sorpassarli, il libro è stato pubblicato da Keller Editore, appunto in una collana della casa editrice che si chiama Confini. E sarei molto contenta, Roberto, se tu spieghi contesto, sì, al pubblico anche la tua idea di questa collana, sì, oppure anche della tua casa editrice, che è veramente una delle più, come dire, aperte ai confini, ma anche ai confini del pensiero, non solo ai confini territoriali, anche quello, se pensiamo che Asli Erdogan, per esempio, la scrittrice turca che è stata, che ormai da quanti mesi è già? Da metà agosto è in prigione, è stata pubblicata in italiano da Keller, ed io sono molto fiera di poter far parte di questo universo letterario. Sì. Sì, Confini è un titolo che abbiamo scelto per un progetto, non è proprio una collana, perché è difficile poi anche spiegarlo, in realtà è una sorta di parola chiave che diamo ad alcuni libri che distribuiamo in una delle 3 collane della casa editrice, che sono principalmente delle collane letterarie, ma dallo scorso anno c'è anche una collana che si occupa anche solo di reportage, un reportage narrativo sullo stile di Kapuscinski, tanto per darvi un'idea. Quando ci siamo avvicinati al centenario della Grande Guerra, ci siamo chiesti in casa editrice, perché fosse una delle cose belle di fare questo mestiere e poter ogni tanto anche porsi delle domande, come raccontare questo centenario. Potevamo fare come hanno fatto tutti, ripubblicare diari, saggistica, eccetera, libri comunque di grande importanza e di valore, oppure potevamo invece percorrere questa identità che ci appartiene, cioè quella proprio di essere in una zona di confine e di interpretarlo in una maniera attiva, cioè dire qui siamo ed è il posto migliore per guardare anche al di là. Poi ci siamo resi conto poi nella nostra storia che non si trattava solo di guardare al di là o al di qua e di portare dall'al di là al di qua, ma questa zona di confine, queste Alpi, erano poi un territorio ricchissimo di esperienze, l'Alto Adige di fatti ne è una. Però abbiamo voluto raccontare attraverso appunto i confini che cosa è l'Europa oggi, e ci siamo resi conto, un piccolo viaggio che stiamo ancora compiendo, che in realtà in questa Europa che noi pensiamo unitaria e monolitica, no? Perché la presentiamo come sistema economico, eccetera, in realtà è ricca, ma è ricca perché è estremamente diversificata e perché sussistono ancora questi confini che la Grande Guerra di fatto ha mutato, confini che sono nati da un giorno all'altro, questo ne è un esempio, o territori di confine che da un giorno all'altro si sono ritrovati all'interno di stati più ampi o più piccoli. E questo è stato per noi un viaggio alla scoperta di autori contemporanei che dentro la loro scrittura portavano una serie di tematiche storiche, ma poi anche tematiche molto attuali di incontro di culture, di contaminazioni, eccetera, scoprendo che poi ci sono dei nuovi confini, scrittori che vengono dalla Turchia e scrivono in tedesco in Germania, o che vengono dalla Romania e scrivono magari in francese in Svizzera, cioè, come dire, un'Europa che vive al proprio interno questi confini in una maniera diversa, linguistica, culturale, eccetera. E simbolicamente il primo, come dire, libro di questo progetto è stato di un altro altoatesino, Sepp Mal, e poi è proseguito con una serie di altri autori, Maya Haderlap, per quanto riguarda la storia della minoranza slovena in Austria, Carinzia, eccetera. Ci siamo spostati in un altro territorio che non solo è diviso in due, ma addirittura in tre, la Bukovina, quindi Ucraina, eccetera, con Darusia la Dolce, con Maria Mattios, e quindi stiamo mettendo insieme due o tre libri ogni anno che un po' ci raccontano, come un piccolo caleidoscopio, un'Europa un po' diversa da quella che le letterature, chiamiamole maggiori a livello numerico, ci raccontano. E in questo, come dire, panorama è entrato ovviamente anche il libro di Anna, con questa capacità appunto di giocare storicamente, ma anche poi nel presente, sui confini diversi. Ecco, questo era. Grazie. A voi. Stavi dicendo ancora qualcosa? Racconto un po'? Racconto un po'. Okay. No, come prima cosa mi è venuto anche in mente che a me è successo così, ovviamente sono bilingue, no? E con Carla abbiamo anche discusso, cioè, durante la traduzione su alcuni termini, oppure, cioè, siamo stati sempre in contatto. E poi però alla fine devo dire che mi sono ritrovata tantissimo in questo testo, tradotto nuovo o come si vuol dire, non è importante, sì. Però forse poi ci ho riflettuto e ho pensato, ma forse è così perché c'è veramente la storia delle due identità che formano questo territorio, no? C'è la storia di Dora, di un'italiana che viene da Roma e come adolescente lei e Franz si conoscono qui in Alto Adige. Franz è il figlio di una contadina, una donna molto importante in questo libro, perché lei più o meno è come il simbolo di una donna molto fiera che non si fa condizionare né da nessuno. E loro due si incontrano, hanno delle storie, un passato diverso, si innamorano un po', soprattutto Franz si innamora di Dora, che è una ragazza appunto molto vivace, che appunto come le ragazzine d'oggi hanno come idolo, che ne so, un cantante, cioè per lei Mussolini era l'idolo della sua vita, e lì incominciano. Poi si separano e si ritrovano in modo molto sorprendente nella Repubblica di Salò, dove lei appunto come si chiamavano, che non mi ricordo più, le giovani combattenti, ausiliarie, voleva combattere, però poi finisce come Zimmermädchen, come si dice, della Petacci, e lui invece viene mandato dalle SS lì per fare più o meno agente, ecco. E da lì riparte di nuovo la loro storia. Io devo dire che ho fatto tantissime indagini storiche, cioè tutto quello che ho scritto non l'ho inventato, l'ho solo come puntualizzato nelle vite di queste due persone, però è tutto, cioè sì, è la storia di questo territorio che però appunto in quei due si accumula e porta a ciò che poi Dora e Franz dopo la guerra lasciano tutto dietro di sé, vogliono iniziare una nuova vita, devono reinventarsi, però appunto il passato ad ora soprattutto resta dentro come dei sassi pesanti che porta con sé e che prima o poi, dopo però decenni, più o meno deve in qualche modo affrontare. Ed è anche la storia come lei, insieme a Franz, il suo compagno, affronta questa storia. Il libro, poi forse leggiamo alcuni brani, volevo è raccontato dalla prospettiva di Franz, cioè proprio dal maschio, e questo per me è stato molto interessante. Cioè io non avrei mai potuto parlare dalla prospettiva di Dora, che non è la mia. Cioè, c'era ovviamente una grandissima distanza e perciò ci ho riflettuto tanto, ma in che modo potrei raccontare questa storia, e poi appunto ho deciso di prendere la prospettiva di qualcosa che non mi è vicino, cioè la prospettiva di un maschio, e guardare su una storia, quella di Dora, che anche non mi è vicina. E qui vorrei dire che per me anche questo è una cosa che la letteratura può fare, cioè noi possiamo, scrivendo oppure voi poi leggendo, metterci nei panni degli altri, che se no non riusciremo mai in qualche modo a capire. E soprattutto per un territorio come il nostro, a me questo è sembrato molto importante, cioè non raccontare sempre ognuno dalla propria prospettiva la propria storia, ma guardare qual è la storia degli altri, cos'è che non riesco a comprendere ma che vorrei comprendere. Ecco, e questo è stato la domanda che mi sono posta io anche scrivendo questo libro. Sì. Okay. Molto vero, anche se sì, è così, cioè, raccontarlo forse un po' meglio, essendo in fondo, adesso sto detto così, tra virgolette, un sudtirolese con qualche cosa, cioè chiaro, una conoscenza anche profonda, non del maschio, non del maschio, ma comunque dell'ambiente, del mondo, dell'ambiente. Io prima, scusatemi, era un vizio di famiglia, ho detto un norvegese invece la Finlandia, quello è stato un vizio mio, con le mani, ho sbagliato io, ma era colpa del mio bisnonno. Ecco. Scusa. Sì, io posso aggiungere forse una cosa a quello che ha detto Anna, perché tu hai detto che hai fatto delle ricerche storiche, delle indagini, l'hai scritto a Roma, sei andata negli archivi, eccetera. Ecco, e questo è stato un aspetto interessante, sfidante, diciamo, anche per la traduzione, perché comunque c'era una ricerca storica, bisognava in qualche modo anche informarsi su questi fatti storici che stanno alla base del testo, e poi c'erano anche dei settori che lei ha toccato, che, nei quali il traduttore comunque doveva andare a informarsi, e questo è il settore botanico ad esempio, perché nel libro si parla appunto di queste litops, che sono queste pietre vive, ma in sostanza sono delle piante, no? Che fioriscono una volta all'anno. Poi lei ha fatto delle grandi descrizioni del Giardino Botanico di Roma, e questo ha chiesto al traduttore naturalmente di andare a informarsi anche sulle specie botaniche, i tipi di palme, eccetera. E qui c'era anche un discorso di tipo geologico, diciamo così, che ci sta bene coi sassi naturalmente, perché appunto le formazioni granitiche del nord Europa, la geologia di quelle montagne non la conoscevo neppure io benissimo, quindi anche anche qui ci siamo dovuti informare e poi naturalmente anche sui segnali di navigazione marittima. Ecco, questo per dire come polifonico è il testo letterario, no? E questo è anche il bello di tradurre letteratura, che nella traduzione letteraria ritrovi anche banalmente la traduzione tecnica ad un livello più alto, quindi questo è interessante, e però devi sempre tenere presente che non stai traducendo un manuale di geologia o di botanica, ma comunque un testo letterario. E adesso vi chiederete: ma come tutte queste cose possono essere raccontate in un libro di 116 pagine? Direi che vi leggiamo alcuni brani, ma forse sì, vorrei anche spiegarvi che il mio modo di raccontare è anche un modo molto come metaforico, oppure come fare una, cioè quello che un acquerello ti può far vedere, come un quadro, un dipinto ti può far capire meglio di un saggio di 100 pagine. Cioè questo è il mio modo di scrivere, proprio di anche di concentrare su un certo piccolo aspetto, ma in quell'aspetto c'è tanta simbolica, ecco. Poi questo lo sentirete, perché leggiamo tre o quattro brani dove appunto capirete quel che voglio dirvi. Lei ha parlato di acquerelli, io parlavo di sinfonia, parlavo di musica, e qui invece tu parli di acquerelli. È importantissimo, perché il bianco degli acquerelli è la pagina, e qui è naturalmente la traduzione, di nuovo il valore della tua traduzione, oltre che la meravigliosa scrittura, è anche proprio il bianco, cioè la pagina in quanto tale. Grazie. Allora, vediamo un po'. Facciamo una lettura sperimentale, non abbiamo fatto mai, facciamo bilingue. Devo aprirmi entrambi i libri per capire dove siamo. Allora, vi leggiamo l'inizio. Siamo in Finlandia. Zu Beginn waren es kleine Steine, die Dora von unseren Streifzügen durch die Wälder mit nach Hause nahm, wenn wir Beeren oder Kräuter sammelten. Leicht nach vorne gebückt, mit den Augen am Boden umherstreifend, ging sie durch den Wald, löste den einen oder anderen Stein vorsichtig aus dem Erdboden, darauf bedacht, ihn nicht mit allzu großer Gewalt aus seiner Lage zu lösen. Behutsam streifte sie das Erdreich und die Krabbeltiere ab, um den Stein dann fest in die Hände zu nehmen und ihn abzutasten. »Ich spüre seine Wärme«, sagte sie zu mir. »Komm, fühl auch du.« All'inizio erano solo piccoli sassi che Dora si portava a casa dai nostri vagabondaggi nei boschi in cerca di bacche o di erbe. Camminava per il bosco, protesa leggermente in avanti, scrutando il terreno, sollevava con precauzione l'uno o l'altro sasso da terra, stando attenta a non staccarlo con troppa forza dalla sua nicchia. Lo ripuliva bene dal terriccio e dai piccoli insetti, lo teneva stretto tra le mani e lo tastava. «Sento il suo calore», mi diceva, «dai, tocca anche tu». Nei primi giorni d'estate Dora faceva sonni inquieti, quasi pregustasse la gioia dei giorni che si allungavano e che poi sarebbero diventati infinitamente lunghi. Mi svegliavo quando sentivo i suoi piedi cercare i miei, le sue gambe che si allacciavano attorno alle mie, e lei che ancora nel sonno faceva scivolare piano il piede lungo la mia gamba. Allora mi giravo verso la finestra per vedere se il sole si era già alzato. Non oscuravamo la camera come facevano quasi tutti da queste parti. E così, col passare degli anni, avevamo adattato il ritmo delle nostre giornate al corso del sole. Halb fünf begannen die Möwen auf der Insel ihre Schreie auszustoßen, schrill und rau, ein paar wenige Laute zuerst, die dann zu einem Dickicht an Stimmen anwuchsen. Ein Staccato von Schrei und Gegenschrei, undurchdringlich im Auf- und Abschwellen. Eine Beschwörung erschien es uns, jeden Tag, der aufgehenden und der untergehenden Sonne. Le prime volte non capivo cosa spingesse Dora a uscire tanto presto al mattino. avevamo appena bevuto il nostro tè e mangiato del pane, che lei già mi incitava a raggiungere un posto dove dei massi, lisci ed erosi dalle maree, piatti come balenottere spiaggiate, formavano una baia. I fusti delle betulle, isolate tra i sassi, si stagliavano contro le rocce grigie e brillavano di un rosa tenue nella luce del mattino. Una cintura di canneti si muoveva appena nel vento leggero. Erano momenti di quiete, il sole non splendeva ancora con tutta la sua forza. Ogni cosa era nell'attesa trepidante di un prossimo accadere. Dimenticate ormai le lunghe giornate invernali, un ricordo lontano rimasto dentro, come le strie glaciali dei graniti che con la spinta dei ghiacciai si erano impresse nel substrato roccioso. Auch gegen Abend zog es Dora zu jener Bucht. Sie lag im Licht der Abendsonne getaucht, öffnete sich gegen Westen hin und je nach Witterung und Wolken schien es, als ob ein Feuerball am Himmel stünde. Das Licht brach sich in den Wolken von golden bis dunkelrot, die Stämme der Bäume schienen in Flammen zu stehen. Das Wasser, eine glatte Fläche zwischen den Inseln ausgespannt, der Stein atmete die Wärme des Tages aus. Hier ist es gut, meinte sie nach ein paar Wochen, in denen sie die Windbewegungen in der Bucht beobachtet hatte. Hier werden sie ihren Platz haben. Adesso passiamo a un altro capitolo, leggiamo il secondo capitolo dove Franz descrive sua madre e poi racconta come Armando, il signor Armando, che è un maestro siciliano che però viene più o meno esiliato, come è anche successo nell'Alto Adige, viene a vivere nel maso di questa contadina, della mamma di Franz, e poi sì, e lui è il papà di Dora, e così poi Dora e Franz si conoscono. O leggo io questa, che mi piace tanto. Un tempo mia madre poteva dirsi bella, la pelle chiara, poche le rughe anche più avanti negli anni, gli occhi celesti e sopracciglia regolari, gli zigomi alti, le labbra un po' sottili e serrate, alta e fiera. Una volta, durante un soggiorno a Maria Lichtmoos, il paese in cui sono nato, mi capitò di visitare una mostra di disegni acque forti a cui l'artista aveva dato il titolo a mia madre. Riconobbi in quella madre la mia, il riserbo delle braccia conserte, il viso rivolto a una luce lontana che da fuori sembrava illuminare il disegno, il portamento eretto e inflessibile. Era una contadina mia madre, ma non portava il fazzoletto se non per andare in stalla. Era orgogliosa dei suoi capelli che teneva raccolti in corone di trecce girate intorno alla testa. Mi ricordo come il sabato sera, dopo che in ginocchioni aveva strofinato le assi della cucina, della stube, della camera e del balcone, si scioglieva le trecce, il viso caldo e arrossato, e si lavava i capelli con l'acqua bollente rimasta nella vaschetta del fornello, che prima aveva mescolato con quella fredda del mastello. Seduto alla panca accanto alla stufa, attraverso lo spiraglio della porta aperta, la guardavo strizzarsi i capelli, proprio come poco prima aveva fatto con lo strofinaccio, e poi intrecciarli di nuovo. Per un attimo riuscivo a intravederli, lunghi, sciolti a onde regolari. Poi lo spiraglio si chiudeva, mia madre si lavava. Conservo da decenni dentro di me il ricordo di questi rari momenti di intimità condivisa e inosservata. Ricordi preziosi sui quali vigilo, come da bambino vigilavo sui primi Kirchtagskrapfen che mia madre estraeva dal grasso sfrigolante e metteva su un piatto e che io potevo solo mangiare con gli occhi per non scottarmi subito la bocca con la marmellata calda. Quando il maestro venne ad abitare nel piccolo appartamento ricavato all'interno del maso, l'equilibrio tra mia madre e i paesani iniziò a sgretolarsi. Lentamente prima, poi con aspra e malcelata cattiveria. Lei non era contraria, ma neppure d'accordo che il signor Armando venisse a vivere con noi. Era successo senza che lei lo volesse, ma anche senza alcuna resistenza da parte sua. Era stato deciso in tutt'altro luogo. Un giorno si era presentato alla porta il podestà, uno che era tristemente noto per la sua inclinazione a gioire di situazioni che per altri erano sgradevoli. Accanto a lui un uomo fine e piccolo, con un viso dai lineamenti morbidi, occhi chiari e vivaci, le sopracciglia spesse e i capelli scuri e mossi, pettinati all'indietro. Pioveva e l'autunno era alle porte. Il signor Armando restò a fare scuola ai bambini del paese. E così i due, la mamma di Franz e il signor Armando, trovano un modo di avvicinarsi, però sempre lasciando all'altro anche la propria identità oppure il proprio modo di essere anche diverso. E questo forse appunto in un modo molto metaforico lo descrive la situazione che adesso leggerà Carla. Colori forti, acqua marina, ocra chiara e terra d'ombra bruciata, stesi a pennellate ben mirate, spesse e intense e con poca acqua. Blu oltremare in orizzontale, il pennello entra nell'acqua e spalma il colore facendolo penetrare nei grossi pori della carta che lo assorbe. Con un pennello più sottile traccia nel colore ancora umido una linea decisa di turchese, fine e molto diluita, lì dove l'orizzonte entra nel cielo. Piccoli graffi verticali fatti con uno stecchetto, gli arbusti della macchia mediterranea, ispidi e secchi, le cui punte si disciolgono nel blu, già un po' asciutto, del mare. Davanti agli occhi di mia madre nasce un mondo che fino a quel momento per lei non era né un'idea né un'immagine. Fuori la neve cade fitta, inghiottendo il rumore del mondo. Dentro, il signor Armando disegna il suo Mediterraneo con l'acqua chiara delle Alpi. Le fertili pendici attorno a Monreale, viti e ulivi, verde in tutte le tonalità, aranci e limoni abbozzati con tocchi di giallo e arancione carico. Il signor Armando ama i colori primari, lascia che si incontrino l'un l'altro sulla carta e si stupisce delle loro sfumature e gradazioni, mentre sorride timidamente a mia madre. Tutta pastello e vibrazioni, la luce estiva sopra la conca d'oro. Dal mare si irradia sulla piana di Palermo, su fino alle montagne calcaree. Spesso mia madre non osa nemmeno guardare il quadro che sta nascendo. Le sembrano un miracolo quei paesaggi, così vividi, luminosi. Anche nelle ombre dei vicoletti la luce cade dritta, una superficie bianca, senza colore, abbagliante per il contrasto con le tinte scure che la circondano. Poche pennellate per i contorni di figure appena accennate, abiti scuri, portamento eretto, come quello che mia madre conosce di sé. Hanno spostato il tavolo della stube vicino alla finestra per avere più luce. Il signor Armando dipinge, mia madre cuce o rammenda. Alle 4:30 si fa buio e vanno nella stalla. Ecco, un ultimo capitolo direi giusto per dargli un'impressione, è il capitolo dove Dora viene appunto a... da suo padre e dove Dora e Franz poi si incontrano per la prima volta. Adesso come facciamo? Leggiamo. Cominci tu in tedesco. Qual è? 10. Allora. Vuoi vedere? Ok. Vuoi leggere qui? Im Sommer des Jahres 1939, in dem so viel entschieden werden sollte, lernte ich Dora kennen. Sie kam für einen Monat zu ihrem Vater, Herrn Armando, aus Rom in die Berge. Für mich 14-Jährigen war der Aufenthalt dieses gleichaltrigen, quirligen Mädchens ein Abenteuer, die Begegnung mit einer mir unbekannten, fremden und auch geheimnisvollen Welt, der ich mich anfangs zurückhaltend und scheu näherte. Doch Doras unbefangene Art machte es mir nicht schwer, dass auch ich mich ihr zu öffnen begann. Lavoravo dal bottegaio e ogni volta che potevo aiutavo mia madre. Nelle ore che passavo al Maso durante il fine settimana, notavo un signor Armando diverso dal solito, che si intratteneva animatamente con sua figlia, mostrandole e spiegandole tante cose. Lo vedevo farsi pensieroso quando io e Dora eravamo seduti a tavola e lui ci sentiva scherzare e discutere del più e del meno in quella nostra ingenuità di adolescenti che ci univa al di là di lingue e culture diverse. Dora era una ragazzina sveglia, curiosa e partecipe come suo padre. Il signor Armando cambiava però espressione quando Dora, in toni da ragazzina esaltata, si metteva a parlare del Duce come se si trattasse di una stella del cinema. Era entusiasta delle fotografie sulla sua rivista preferita, Piccola, che lo ritraevano d'estate a Riccione. Entusiasta della disinvoltura con cui portava il basco, i pantaloni bianchi abbinati al maglioncino blu scuro della Marina Militare. Mi mostrò una foto del 1936, la passeggiata del Duce sul lungomare. Abito nero abbottonato da cui sbuca il collo della camicia bianca. Cammina sulla spiaggia a lunghi passi, quasi al passo dell'oca, la testa eretta e lo sguardo dritto davanti a sé. Il cielo è nuvoloso, le onde schiumeggianti, non troppo ma neanche troppo poco. Cammina proprio sul filo dell'acqua. Un sole lattiginoso filtra tra le nuvole. Sopra di lui il cielo si è schiarito e illuminato. Un dittatore che ha dalla sua parte non solo la folla esultante, ma anche le condizioni meteorologiche. Perché mai avrebbe dovuto dubitare di se stesso? Fino all'ultimo si credette infallibile, intoccabile, persino immortale. Dora era infatuata del suo sguardo penetrante che, diceva, colpiva dritto al cuore della gente, uno sguardo ipnotico. Mi raccontò del raduno delle piccole italiane allo stadio di Roma, a cui aveva partecipato anche lei, e il Duce in persona aveva rivolto loro parole entusiastiche, incitandole a dare il meglio per la patria, persino a sacrificarsi per la famiglia, per lo Stato, per il fascio. Come se avesse parlato a me personalmente, sì, così mi disse, eccitata. Sacrificarmi, sì, prima o poi lo farò, per una cosa importante, non per delle sciocchezze. I suoi occhi inquieti, due fiammelle che brillavano al soffio del vento. Il signor Armando lanciò uno sguardo a mia madre, che non capiva il significato di ogni parola. E tuttavia si rendeva conto che in quella ragazzina c'era qualcosa di inquieto e ardente, che attendeva solo che la vita lo spegnesse. Noch nie hatte ich einen Menschen so viel reden hören, so sprudelnd und überbordend erzählen, von einem Argument zum anderen springen. Und doch war alles von einer Logik durchzogen, von der Logik eines jungen Mädchens, das seinen Platz im Leben suchte und dabei alles aufsog, was es umgab, um es in sein Leben hineinzuholen. Sie schien von einem Licht durchdrungen zu sein, das bei all seinem Leuchten und Strahlen etwas Dunkles in sich trug. Den Schatten seiner selbst, warm und bedrohlich zugleich. Dieser Schatten war es, der mich in ihre Augen hineinzog. Ero innamorato di Dora? Non so. A volte non osavo neppure guardarla per paura che se ne accorgesse e mi prendesse in giro. Ma quando chiacchieravamo insieme, dentro di me si apriva qualcosa che mi spingeva a parlare. La porta di un giardino profumato, la promessa di quello che solo ora cominciava a delinearsi all'orizzonte. Io, se permettete, c'è un piccolo pezzettino che mi piacerebbe tanto che voi leggeste in italiano e in tedesco, che è la fine del libro. Okay. L'ultimo piccolo pezzettino, dove vuoi, quando appunto il figlio Franz torna in questo Spengler, personaggio veramente molto, molto discusso e molto importante nella nostra vita in sul Tirolese, ma questa è un'altra storia, e quando torna al Maso e dorme nella paglia, nel fieno, e poi si sveglia e vede arrivare la madre con una persona accanto a lei. Basterebbe forse anche mi sono risvegliata in tutti i lavori, forse non so. E questo? L'ultimo paragrafo, Bruna, dici, tentando. Sì, come appunto li manda via praticamente. No? Sì. Io non me ne sono accorta, ma qualcuno ha urlato, guardate, piange, mi sono girata. Ah, a proprio la fine. Okay. Mm-hmm. Sì, sì. Sì, allora qui siamo a Milano, appunto. Piazzale Loreto, quindi la vista dei corpi di Mussolini e e la Petacci e Dora va lì perché vuole vedere queste due persone che per lei hanno avuto così tanta importanza. Io non me ne sono accorta, ma qualcuno ha urlato: guardate, piange! Mi sono girata, volevo sgattaiolare via tra la folla, via da lì, via via, ma ormai era troppo tardi. Mi hanno fermata. Ma guardate, di sicuro è una delle sue puttane. Dai, bambolina, balla anche per noi. Sghignazzavano. Adesso vedrai come finisce. Forbici e coltello. Mi tenevano stretta, mi hanno spinto la testa all'indietro. Sentivo i miei capelli, li sentivo cadere a terra. Erano brutali, facevano male, Franz, male dappertutto. Sentivo l'urina scorrermi giù per le gambe. Poi sono svenuta. Mi sono risvegliata in un cortile buio, sopra di me, finestre tutte chiuse, la camicetta strappata. Accanto a me una suora mi avvolgeva un panno attorno alla testa. La porto in convento, signora, mi ha detto. Venga, che l'aiuto io. Dora fece per toccarsi di nuovo la testa, io glielo impedì, prendendole dolcemente le mani tra le mie. Per alcuni minuti restammo così, immobili. Dalla stube, mia madre aveva notato il nostro silenzio e si avvicinò. Sistema le tue faccende, Franz. Poi prendi Dora e vattene via con lei, lontano da qui. Grazie a voi. Il libro è proprio un pezzo di... Io sono vecchia, voi siete giovani, non avete vissuto queste cose, ma è un pezzo veramente molto... molto pesante nella storia di questa terra, molto pesante. Ecco. Grazie. Grazie a voi. La storia ci ha tirato fuori, ci ha riportato dentro. Esatto. Bellissime anche le. Grazie anche per le lavori. Perché è stato un bello esperimento a sentire, cogliere le due in maniera immediata. Sì. Ecco, questo dovrebbe essere appunto la possibilità vera di poter leggere in tutte e due le lingue, di essere in tutte e due le culture. Volevo sapere se c'è qualche domanda. Volevo approfittare magari dell'occasione dell'autrice, della traduttrice, se c'è qualcosa da chiedere. Anche è una storia che lei ha conosciuto, che ha inventato, che... Come dire, così non l'ho conosciuta, no, è costruita, è più o meno costruita, cioè come dire, ci sono dei personaggi come la figura della madre, per esempio, di Franz, che avevo in mente una persona che mi era molto importante, che stimavo molto, però la storia, la trama, quella si è sviluppata da sé. Direi così, avevo dei punti fissi, sapevo che volevo anche raccontare sia da un punto molto periferico, cioè mettendo anche la storia in Finlandia, che dal punto del centro anche del potere, come da Roma, proprio per far vedere sì, che anche il Sud Tirolo sia centro che periferia, cioè volevo sempre metterlo in una relazione. Poi invece le storie dei due protagonisti, quelle sono non inventate, però seguendo ciò che è successo con tanti giovani, sia italiani che erano sia quelli altoatesini. Sì. Certo, sì. Cioè proprio avrebbe potuto succedere, ma non è una storia che qualcuno mi ha raccontato. No? Quello... E pensa che di concludere qui o a... Come dire, adesso è uscito il secondo libro in tedesco fino adesso, dove parto di nuovo anche da questo territorio, cioè questo territorio è la mia Heimat, anche se ormai vivo da 30 anni a Innsbruck, però mi riavvicino sempre di più in un modo nuovo. E anche appunto forse vedendo, avendo questa distanza che geograficamente non è tanta, però c'è un confine, vedo tantissime ricchezze, ma vedo che ci sono state anche tantissime ferite, ma proprio, diciamo, per uno scrittore un territorio così è interessantissimo, veramente. Perciò il secondo libro, che spero venga tradotto anche in italiano, parla anche di Bolzano, dove sono nata e cresciuta, parla anche della migrazione, ma di nuovo in un senso non così concreto. E poi interessante che le figure che una volta hai inventato non le dimentichi. Cioè, nel secondo libro non tutti lo capiranno, ma c'è un accenno dove si sa: ah, questa è stata, cioè proprio quelle ti accompagnano anche se scrivi un secondo libro oppure sono un terzo. Sono sassi vivi che mi porto io dentro. Però appunto quei sassi vivi o quei litops, una cosa è appunto che sono, cioè, hanno l'aspetto di sassi che una volta all'anno fanno veramente dei fiori bellissimi, però hanno anche delle radici molto speciali, hanno delle radici che, siccome sono soprattutto lì, si trovano nel deserto, e lì hanno bisogno di radici molto molto molto lunghe e profonde per potersi prendere l'acqua proprio del fondo più. E anche questo credo sia importante per la scelta di questa immagine delle litops, cioè che le radici vanno molto, molto in basso e cercano però anche loro poi quel che serve a loro per poter di nuovo infiorire. E anche questo tuo scrivere è una ricerca delle tue radici, dai. Ovviamente, e questo non finisce mai. Certo. Io ringrazio tantissimo i presenti, è stato direi un incontro di alto livello, veramente interessante. Ringrazio Valeria che ha contribuito ad organizzarlo, e direi un po' aggiungerei qualcosa a quello che ho detto prima: qualcuno era presente e qualcuno no. E credo che sia molto importante, proprio per vivere in un territorio di confine, anche in una prospettiva di una società che potrebbe essere anche una società di grandi tensioni. Io sono venuta anche all'incontro, ho fatto recentemente la Tesima, dove si è parlato di migrazione, di confini, eccetera. Io credo che la letteratura sia importantissima per vedere le cose da un'altra prospettiva. Assolutamente. Perché ha questa capacità appunto di mettere assieme cose in parte reali e in parte elaborate, che ti fanno vedere le cose da un'altra prospettiva e ti danno altre possibilità di interpretazione. E diciamo così, credo che per la popolazione italiana, ancora di più che per la popolazione di lingua tedesca, parlare di questo territorio, conoscerlo, confrontarsi sia importante per cercare un dialogo costante e costruttivo. L'incontro di prima era un incontro su un testo di saggistica ed è stato proprio interessante come la saggistica, con la sua, come si può dire, nüchtern si dice in tedesco, sobrietà, e la narrativa invece con questa fantasia, con questa elaborazione, permettono veramente due prospettive diverse. Ecco, io ringrazio anche la traduttrice e l'editore che hanno permesso, diciamo così, questa versione italiana di questo. Vorrei solo dire che secondo me è molto importante che sia stato tradotto in italiano, soprattutto esatto. Anche per il territorio qui. Sì. Cioè, secondo me, poi secondo me tantissimi libri che, per esempio, anche Stepmal, no? Che parlano della storia, oppure anche del presente di questo territorio, dovrebbero esistere in entrambe le lingue. Sì, esatto, proprio così per poter, oppure anche viceversa, cioè anche gli scrittori italiani del territorio che vengano tradotti in tedesco, perché solo così Si impara a conoscersi, ormai ci conosciamo, sì, per veramente comprendersi, diciamo l'altro così, punto, no? Di proprio l'altra prospettiva, sì. E trovare una mediazione di dialogo tramite la letteratura, no? Esatto, questo, come ha detto Bruna, a me poi è piaciuto molto anche la lettura in italiano e in tedesco, perché diciamo così si sta costruendo qualcosa, ma generalmente c'è, non so, la presentazione in italiano, la presentazione in tedesco, parallelo, anche una reciproca conoscenza. Ma leggere il testo in italiano, in tedesco, questa alternanza, io l'ho trovata veramente suggestiva e molto bella. Tanto che, cioè, lo dico qua, volevo dirlo a Valeria, ma secondo me una cosa così sarebbe molto bella nelle scuole. Sì, sì. Ecco, nelle scuole dove, diciamo così, qui da noi si va sempre di più verso una scuola, diciamo, bilingue, o che cerca di dare una buona conoscenza delle due lingue del territorio, questo può essere veramente uno strumento, sia per conoscenza della lingua, della sua struttura, ma anche proprio come ponte culturale. Ecco, questo penso che potrebbe essere così una suggestione che mi piacerebbe. Bello. Io penso anche che, appunto, Alice citava i libri, la saggistica, no? I libri di storia. Allora, effettivamente, quelli ci fotografano una realtà, la ricostruiscono in maniera molto scientifica e poi riportano dei fatti, no? Chi più chi meno, insomma, in una maniera coerente. Ma il racconto è un'altra cosa, no? Giustamente, perché racconta delle emozioni, è più realistico da un certo punto di vista, sì, e ti mette in contatto con la parte diversa da te, ed entri in contatto e c'è un'empatia che altrimenti, sentendo solo come vengono narrati i fatti, come vengono esposti quelli che sono stati gli episodi precedenti della nostra terra, possono emozionare fino a un certo punto. Effettivamente, attraverso la narrazione puoi aprirti e collegarti molto meglio, e tradurre questi libri in una o un'altra lingua fanno sicuramente la ponte. Questo esperimento della lettura nelle due lingue è stato bello. Sì, sì, sì. Sì. No, non solo, sì, ma per esempio una piccola particolarità che c'entra, ma mi è venuto così. Questo maestro, questo Armando, che viene mandato in castigo praticamente, secondo la parola, in su Tirolo, in Alto Adige. Ma quanti degli insegnanti di lingua tedesca sono stati invece mandati in castigo? Ecco. Perciò anche questo uno non gli viene in mente di pensare. In fondo c'è questa, c'è un dolore forte, delle parti, questo voglio dire, non è, ecco, a me sembra molto importante la dimensione umana, che è comune più che separata, esatto, no? E anche forse in questa generazione c'è stato un tradimento, perché sia da una parte che dall'altra c'è stato il credere in una prospettiva futura che poi è stata disastrosa, e quindi anche il tradimento di una generazione che è stato molto forte e molto duro, perché poi tradire un giovane che ha delle aspettative di vita è forse la più grossa cosa che può fare un adulto, perché gli rovina il futuro. C'è di più che ci accomuna, direi, cioè, se lo si vede da un punto di vista emotivo, sì, cioè, ci sono tantissime cose che ci accomunano. Sì. E anche questa storia del confine, questi complici storie di confine che ci accomunano dappertutto, insomma, sì. Sono le stesse storie, sono veramente le stesse. Io vi ringrazio e speriamo di rivedervi in Alto Adige, sarebbe bello. Sì. Il libro lo ci trova anche fuori. Sì, adesso il libro è in vendita con il 20% di sconto per chi partecipa a questa iniziativa. No. Io direi che adesso l'unica cosa da fare è leggerlo. Grazie a voi. Un salto.